America 24 di Mario Platero. Buongiorno, benvenuti all'America 24 da New York. Mario Platero. After nearly 9 years, our war in Iraq ends this month. We're here to mark the end of this war, to honor the sacrifices of all those who made this day possible, and to turn the page, to begin a new chapter in the history between our countries. A normal relationship between sovereign nations. Barack Obama alla Casa Bianca, una giornata solenne, il presidente americano si è incontrato col primo ministro iracheno Nouri al-Maliki. È stata una giornata solenne perché fra poche settimane, fra pochi giorni ormai, i soldati americani torneranno per sempre dall'Iraq. Barack Obama ha già detto che la guerra di fatto è finita, non c'è più formalmente, come vi dicevo, la data del rimpatrio finale, sarà subito prima di Natale, ma già adesso una gran quantità di soldati americani stanno rientrando, c'è un ponte aereo che li sta riportando indietro. E sentiamo che cosa dice Barack Obama in questa conferenza stampa. When I took office, nearly 150,000 American troops were deployed in Iraq. Today, only several thousand troops remain there, and more are coming home every day. L'Iraq è una nazione sovrana, dice il presidente americano, autonoma e democratica. Quando mi sono insediato alla Casa Bianca, 150,000 soldati americani erano di stanza in Iraq. Ora ne sono rimasti soltanto alcune migliaia. È la stagione dei ritorni a casa. Ora vogliamo una relazione a tutto tondo con l'Iraq. Vi ho fatto sentire questa specifica dichiarazione perché riassume 3 o 4 aspetti importanti. Il primo, che nonostante Barack Obama fosse contrario a questa guerra, ha raccolto la staffetta e l'ha portata a termine, non che l'abbia portata a termine da solo. Il lavoro di chiusura di questa guerra era già cominciato con George W. Bush, e Barack Obama ha seguito grosso modo le linee guida dell'amministrazione precedente, però ha mantenuto la promessa, e dunque questo è un punto molto importante per la campagna elettorale. Barack Obama potrà rivendicare di aver fatto bene in politica estera su molti fronti, non soltanto in Iraq con la chiusura di questa guerra, ma anche ad esempio con l'uccisione di Osama Bin Laden, con la liberazione della Libia. Infine, vogliamo una relazione a tutto tondo con l'Iraq. Ecco, questo è il futuro. Lasceremo agli storici il giudizio sulla intuizione iniziale di George W. Bush quando fece partire questa guerra. Per ora la decisione viene interpretata un po' come un disastro, perché l'Iraq resta in uno stato confusionale, perché ha tolto una spina nel fianco all'Iran. L'Iran si sente liberato, diventa una potenza dominante. Insomma, ci sono stati davvero molti errori da parte dell'amministrazione Bush. Non dimentichiamo che questa decisione è maturata nel contesto del post-attacco dell'11 settembre. La domanda di fondo a questo punto è un miraggio la chiusura di questa guerra o è una realtà? Ci sono stati vari interventi, quello che mi ha colpito di più ieri è stato quello di Fred Kagan, un politologo storico con l'American Enterprise Institute, e lui sostanzialmente dice, beh, ci sono delle situazioni con la chiusura di questa guerra che lasciano gli Stati Uniti in una posizione incerta. Sappiamo che doveva esserci una base militare, non c'è stata, e dunque Kagan suggerisce che ci siano 3 o 4 punti centrali di cui l'Iraq dovrà farsi garante. E cioè, il primo, prevenire che ci siano dei gruppi terroristi che vadano ad insediarsi in Iraq cercando un santuario, evitare che ci sia un collasso dello Stato. L'Iraq è formato da vari gruppi etnici, deve restare uno Stato unico, unito, rispettare tutte le responsabilità internazionali, contenere l'influenza iraniana, dunque recuperare il vecchio ruolo di spina nel fianco. Sono in linea con Guido Limpio, inviato del Corriere della Sera a Washington. Buongiorno Guido. Buongiorno a voi. È immaginabile che dopo questa lunghissima guerra l'Iraq torni o diventi santuario dei terroristi? Certamente, di due tipi. Il primo gruppo sono i gruppi sunniti, che noi chiamiamo così per semplicità qaedisti, comunque gruppi integralisti che non sono stati debellati. L'altra minaccia è quella dei gruppi sciiti, quindi molto vicini, diciamo, come ideologia e come religione al governo, che il governo è maggioranza sciita, molto vicini anche all'Iran, ma che hanno una loro agenda radicale, ultra radicale. Tant'è vero che in queste ore uno dei temi più grossi è che cosa accadrà di alcuni di questi che sono stati catturati, responsabili della morte dei soldati americani, e può darsi che il governo iracheno decida di liberarli. Quindi il rischio terrorismo, secondo me, c'è, potrebbe essere anche enfatizzato dai prossimi passi del governo iracheno. L'Iraq resterà unito oppure lo vedremo spaccato tra sciiti, sunniti e curdi? Il rischio di spaccature c'è, è forte, anche perché diciamo non sono stati risolti i problemi dei rapporti tra sunniti e sciiti. I curdi sono un po' più tranquilli, ma io credo che ci siano i segni purtroppo di nuove deflagrazioni sulla base etnica. Ecco, questo ha un riflesso diretto sui rapporti con l'Iran. Contenere l'Iran, Saddam Hussein era un maestro nel contenere l'Iran. L'Iraq di al-Maliki riuscirà a farlo? Questo è un punto molto difficile perché è molto vicino all'Iran. L'Iran si è infiltrato pesantemente in Iraq sia con l'appoggio del governo che in maniera indipendente, quindi ritengo che sarà una buona occasione per l'Iran per allargarsi. Non credo che riusciranno a contenere troppo l'influenza di Teheran. Facendo un bilancio di questa guerra durata 8 anni, 4.000 morti americani, migliaia, decine di migliaia iracheni, 1.000 miliardi di dollari di costo, è un bilancio disastroso o è il prezzo della democrazia? Da una parte il prezzo della democrazia, dall'altra si rischia di pagare un prezzo altissimo. Si rischia che il paese sia molto più vicino all'Iran che non agli Stati Uniti. Come ha detto Obama, sarà la storia poi a giudicare. E questo naturalmente rischia di destabilizzare l'Arabia Saudita nel momento in cui i sauditi sono nervosissimi per la primavera araba. Non c'è dubbio, questo apre un fronte sia con l'Arabia Saudita perché favorisce un allargamento iraniano e anche influenza quello che accade in Siria, perché l'Iraq, ricordiamolo, è uno dei pochi paesi dell'area che sta appoggiando ancora il regime di Assad. Quindi vediamo che è diventato un cliente non troppo facile per gli americani. Come hai vissuto questo ritorno a casa dei ragazzi prima di Natale? Molto emozionante il ritorno di questi soldati a sorpresa, no? Che sono presentati nelle aule dove sono i loro figli a scuola o bussando alla porta di casa proprio per fare una sorpresa alle famiglie. E ovviamente è una cosa molto toccante, perché molti di questi sono stati mesi e mesi distanti e arrivano, ripeto, alla vigilia di Natale, e c'è insomma un senso che si chiude una fase politica, ma anche diciamo così, anche una fase personale per tutti questi soldati che sono stati sul fronte di guerra. Ci sarebbero mille altri approfondimenti, idee da questa costa atlantica che vive sì tempi difficili, ma resta pur sempre la nuova frontiera. Continuerete a trovarli su america24.com, il sito che vi porta sulla sponda americana. Seguitemi su Twitter, @MarioPlatero, scriveteci su Facebook. Ed eccoci alla canzone del giorno. Il 16 dicembre, fra pochi giorni, Mountain Goats saranno a Los Angeles per partecipare a una serata di beneficenza per bambini poveri africani. La band Indie Rock partirà poi per un tour degli Stati Uniti che finirà qui a Carnegie Hall a New York. Dei Mountain Goats, Lovecraft in Brooklyn. Without their bandages, their voices raised in song. When the streetlights sputter out, they make this awful sizzling sound. I cast my gaze toward the pavement. Too many blood stains on the ground. Rhode Island dropped into the ocean. No place to call home anymore. Lovecraft is broken. Da New York è tutto, Mario Platero vi saluta e vi dà appuntamento a domani. Goodbye and get going. America 24.